difficile, lo so, però è meteo. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Well, you see, if this rhythm you have a patch, you know man made it. And you see, after me done made it, me set it. Hey, baby. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Say, if you have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say, 5 + 5, it equal to 10. And if you have both, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a end. Now, zungo, zungo, go, zungo, zen. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Jumpy, happiness, and jumpy down. Sei pronto? Sono pronto. Vai. Sei pronto? Sono pronto. Sei pronto? Dai, che famo notte? Vi ricordo che non sono sordo, ma alcune cose a volte le scordo. Sì. Cosa c'entra questa cosa qua? No, non me la ricordo. Sono partito per dire una cosa, poi dopo mi sono perso. Zungo zungo go zungo zen, hey, kushum pen, kushu shushum pen, hey, kushum pen, kushu shushum pen. Think if you have a start, you must have a end. Think if you have a paper, you pass me the pen. But tell your yellow man, I'm too much girlfriend. Can't offer the matter, but me not a no girlfriend. You are idiot, boy, me have a 110. Say all of them a be yellow children. All of them a be yellow children. Some live a Kingston, and don't have me a pen. None of them a ask me, oh, me have no girlfriend too. Arguments, I have enough arguments, Lord. Arguments, I have enough arguments. Me enter in the house of parliament. Prime Minister and his wife have to keep silent. A true yellow man, a chat intelligent. They put me in the court, the judge say you're innocent too. Arguments, I have enough arguments. Sanja should have been my girlfriend, hey. Lady Anne should have been my girlfriend. Make a zungo, zungo, go, zungo, zen, hey. You know fi jump fi happy or joy. You know fi call yellow man no boy. Nobody take John Jeff fi tie. Me brother law them call him you right. Zungo zungo go zungo zen. Watch it up. Zungo zungo go zungo. Prova prova prova prova. Prova prova, buono così. Eccoci qua ragazzi. Ma che è? Ah, è la Dana del Sol. Thank you.

wet me will. Wet me will. Dai, dai. Scegli il brano che vuoi ascoltare ogni giorno. Entra nel sito, cioè entra proprio, insinuati nel sito www.gigidag.com. E una volta dentro ti si apre il pop-up, la paginetta. E lì dentro troverai l'elenco dei brani e quelli che sono. Devi sceglierne uno di quelli. Tra l'altro puoi ascoltare anche il preview, cioè puoi sentire un pezzettino del brano in questione, nel caso tu non conoscessi, hai capito? Poi e poi dopo voti alla fine puoi votare. Cuore, fatevi suore. Lento. Violento. Ciao, questa è forte questa. Questa è la marcia 1 deep nothing. Go nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, thing not go nothing, not deep nothing, thing not go nothing. Dammi un'accelerata, va. Bella Gigi. Fuori dal mondo. Il cammino di Gigi D'Agostino. sabato 6 maggio 2006 dalle ore 2 Gigi D'Agostino alla discoteca Le Sphinx, La Voivre, località Charmes, Francia. Prende vita. Thank you. trovato meglio il cammino su un sentiero di lino che una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. È vero, è vero. Fuori dal mondo, fatto da gente di questo mondo. Lasciamoci andare a qualcosa di buono. Mi sembra buono. Mani al cielo. È un mondo musicale che vuole unire le persone. Musica a tempo guiderà le dita e la voglia a tempo di vivere la vita. Il cammino ti sta vicino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Perché chi ama sa dov'è. Benvenuti nel mondo che non c'è. C'è chi ama, lui sa dov'è. Ma chi ama, sa dov'è. Ci ritroviamo sempre là, a sognare quel che si vibra, uniti nel sogno, ne abbiamo bisogno. Della vita. Ogni giorno, ore 18, il mondo prende forma, si trasforma. Gigi D'Agostino. Grazie a tutti voi per questi momenti lontani da tutto. Chiedemi che lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Quelli porno, mi alzo in piedi, mi corrono intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Mi sveglio, sonno, però buongiorno, ho fatto un sogno di quelli porno, mi alzo in piedi, mi corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Resto in fretta con la sciarpetta, incrocio il vicino ma non gli do retta.